Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È un last minute che ci porta in scena, quello di lunedì 26 febbraio. Ci porta in scena per il 29 febbraio. Faremo uno speciale sul 29 febbraio nei magazine, questo l'ho già detto. Quello che non vi ho detto è che il protagonista invece al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, comico, umorista, commediografo, attore, cabarettista, Paolo Händel. A me piace tantissimo, l'ho sempre seguito. Pur non avendo la televisione, lui ha interpretato diversi personaggi anche di critica, con una critica che certo faceva scattare la risata. Nel mio caso è stata una risata amara, ma ciò porta motivo di riflessione, di satira, di denuncia e allo stesso tempo una grandissima capacità attoriale. Paolo Händel, pensate che fu anche escluso dallo show del sabato sera di Rai 1, Il cielo è sempre più blu, condotto da Panariello, perché alla lettura del copione del comico da parte dei funzionari Rai vi erano alcune battute su Bruno Vespa e sul politico Sandro Bondi, paragonato a Bracco Baldo Bau, che non sono piaciute affatto, e quindi è stato, come tanti, vittima di una censura. Paolo Händel a teatro, Paolo Händel in televisione, io lo conosco più da teatro, e per voi a teatro a San Giovanni in Persiceto giovedì 29 febbraio. Ogni tanto mi potrebbe scappare 29 settembre per il titolo e l'assonanza col famoso brano musicale. No, 29 febbraio è un giovedì alle ore 21 col suo spettacolo Niente Panico, il suo ultimo lavoro, la regia è di Gioiele Dix. Lo presenta lui stesso intanto, poi torniamo in diretta e ne approfitto perché durante questa presentazione io lancio il quiz. Allora, due ingressi, chiaramente un vincitore potrà portare a teatro accompagnatrice o accompagnatore chi più aggrada. Io cerco sempre di farne saltare fuori altri due, mi espongo perché sono molto molto contento di poter premiare mattiniere e mattinieri sui 103.1. Allora, ribadisco, anche se pur senza televisione parlavo di denuncia al mondo dell'imprenditoria, allo sfruttamento sul lavoro, lo faceva con una risata però a denti stretti, amara, perché secondo me chi è un lavoratore dipendente non rideva tantissimo, anche se chiaramente la grande capacità di Paolo Händel portava a tutto ciò. Più che altro rifletteva e come me diceva: beh, questa è una satira, ma non è tanto lontana dalla realtà. In effetti Paolo Händel lo faceva interpretando un capitano d'industria con un nome strano, Carl Carlo. Mi dite il cognome al 333-180-9494 intanto che ascoltiamo l'anticipazione per quanto riguarda Niente Panico. Siamo in un gran bel periodino. Uno di quei periodini che la mattina ti svegli e pensi: che bella botta di culo che ci ho avuto a vivere in un periodo come questo. Le guerre, i disastri ambientali, la terza guerra mondiale che incombe. Perché Niente Panico? E abbiamo deciso, io, Marco Vicari, coautore, compagno di giochi, e Gioiele Dix, altro compagno di giochi, regista, abbiamo deciso di chiamare questo gioco, questo monologo, Niente Panico, perché in realtà di panico ce n'è parecchio in giro e ci sono seri motivi per avercelo. Io e Gioiele Dix ci siamo conosciuti dall'urologo durante il controllo periodico della prostata. Da lì siamo diventati amici. Per me è una festa arrivare in teatro e provare con lui, perché è un uomo imprevedibile, è un uomo molto creativo e il suo miglior pregio è la puntualità. Cioè lui ti dice: arrivo alle 4 e arriva alle 5, ma arriva alle 5 in punto. L'anticiclone Nerone incendia l'Italia. Bambini, state attenti, camminate bassi, che c'è la vampata africana! Fum! Dov'è il nonno? In terra un mucchietto di cenere fumante. riconosco la dentiera e il nonno. Ridere di se stessi e delle cose che accadono è una specie di medicina, si sa, la comicità è un farmaco molto utile nei momenti di panico. Perché ridere fa bene alla salute, le cose ahimè non cambiano, ma la sera si dorme un po' meglio. In grado di far tremare il palazzo con una sola frase, e questa frase in genere è: presto, ho bisogno del bagno. E di nuovo qui con il suo impareggiabile eloquio, car Carlo Pravettoni, che sotto quella spessa coltre di idiozia si nasconda un genio, è un dubbio che non è mai venuto a nessuno. Comunque, per avere un'ulteriore conferma, ascoltiamo le sue parole. Pravettoni, car Carlo Pravettoni, purtroppo sì, una risata, ma se pensiamo ai grandi imprenditori, capitani di industria, soprattutto di questa generazione, non è che avesse deviato più di tanto dalla realtà, solo che portandolo con una grande capacità attoriale e di satira, ovviamente diventava uno dei personaggi più iconici. Anzi, molte volte fanno più loro che la politica d'opposizione. Boccaccia mia, taci. Abbiamo un primo, un secondo posto, un terzo posto. Iniziamo dal terzo posto. Grazie Stefano, grazie. Quindi ti invito a giocare nuovamente con il Breakfast Club quando porta in scena o porta con il Voltiamo Pagina pubblicazioni editoriali. E grazie, ti auguro una buona giornata. Segnato il tuo numero in caso di rinunce. Abbiamo già un secondo posto e un primo posto che a breve vado a proclamare. Piero, grazie, un caloroso abbraccio. Se riesco a portare invece che due ingressi, quattro, e ti posso assicurare che mi impegno per farlo, sarai contattato e ci sarà anche per te il doppio ingresso al Teatro Comunale per giovedì 29 febbraio con Niente Panico di Paolo Ende. Chi è certa di andare a teatro è Paola. Quindi Paola, grazie per la partecipazione, sei stata velocissima. Ribadisco, è giovedì 29 febbraio ore 21. Paolo Endel, Niente Panico. Abbiamo anticipato un pochettino una rubrica del venerdì, però l'occasione ghiotta per questo personaggio, grandissimo talento. Sono le 7:55 minuti, ascoltiamo un po' di musica, andiamo in pubblicità, dopodiché avremo la rassegna stampa culturale con i nostri magazine. A tra poco.